Verónica, la hija Mónica. ¿Cuál efecto chifa, chiriokiti, cuál chiriokiti la? Léyeme este frenético, un tal solético, que te fa dondola, que te fa soltar y le gambe trema. Mónica toque toca con la boca, la acompaña porque negli fuori perfetto motivetto che più bello non c'è. Quando suona Veronica, la fisarmonica, quale effetto ci fa? Giri gli occhi di qua, giri gli occhi di là. Thank you.